a tuoi piedi l'italiano oppresso dal nemico destin più che dall'armi. Quel vitaliano io sono che di Bitinia il trono e gran parte dell'Asia fu sposi amante e sospirai pugnando. Quel io sono che di mille mille lette schiere il sangue versai sol per placarti. Al fine io son e schernito e sprezzato fra tante offese tante non curai d'incontrar l'ultimo fato per spirar al tuo piede l'anima costante e ver t'offesi merita la mia colpa ogni gran pena un disperato amore trasse il misero cuore esecrare il fallo, ma già che piago al cielo la tua salvezza, piacciame la sorte d'averti offesa o bella, per meritare di tua mano la morte. Al carnefice il padre di questa destinata, ma per pietà dell'anima smarrita, volgimi un sol e sguardi tuoi sdegnosi. Bastante a togliermi la vita. Entro a profonda torre, albergo di piacere, stretto in catene, soavia questo cuore, sema il fallore, grida quest'alba, e se io quel carcere profondo, gloria del fido amore, la prima pena che soffro un traditor, sempre cara, fammi un perfido fa, morir in voi.